Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo, e passeggio dentro il mondo. Mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. E se è vero che ci sei, batti un colpo amore mio, ho bisogno di dividere tutto questo insieme. Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri, le sue stelle, ma sono troppe le mie notti passate senza te per cercare di contarle. E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi, io che non ho mai cercato niente, e forse niente ho avuto mai. È un messaggio per te, sto chiamandoti, sto cercando. Prima che cambi luna e che sia primavera, che ci sei, con i tuoi occhi e le tue gambe io riuscirei a girare il mondo e a guardare quell'immenso. E se è vero che ci sei, la caccia via la solitudine, quest'uomo che ha capito il suo limite nel mondo. È un messaggio per te, sto chiamandoti, sto cercandoti, sono solo e lo sai. È un messaggio per te, guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.